Tornati in diretta, 451 frammenti sonori, colonne sonore per radio televisioni inventate. Questa sera ci stiamo reinventando con tanto di rimando, ma non solo, anche tentativi di ricostruzione assolutamente paradossali. Capiamo che stiamo facendo un'operazione assolutamente assurda, siamo contenti di farla, boh, perché insomma siamo nel 2010 di radio televisioni, probabilmente è un po' fuori luogo parlarne, ma proprio per questa possibilità che intorno alla fine, qua in Italia, soprattutto degli anni 70, diedero a livello di immaginazione nuova, si potrebbe anche usare un termine di immaginazione collettiva, questi strani fenomeni via etere che si presentavano appunto a ascoltatori o a telespettatori completamente ignari, perché poi è quella la cosa che più ci fa così sorridere in maniera decisamente simpatizzante, se non addirittura solidale, proprio con quelle forme di pirataggio via etere, è proprio quella insomma di, come dire, creare una sorta di spaccatura spazio-temporale, di momento assolutamente fuori dai canoni e sgregolato in questo senso, e quindi creare un'immagine nuova. Noi immaginiamo appunto come si potesse, che ne so, sentire anche così. Tiriamo fuori anche una delle nostre immagini legate a qualche anno fa, un ignaro telespettatore, ad esempio, dell'altra domenica, che infatti veniva fuori dalla Rai sicuramente, ma era appunto una sorta di pirataggio dentro un contesto che comunque che permetteva di fare quello. Ricordiamo insomma che il movimento e tutto quello che girava l'intellettualità, ma non solo, le pratiche alternative, antagoniste, portavano poi a nuovi linguaggi e anche a nuove appunto immaginazioni, come d'altronde appunto trasmissioni di quel tipo, tanto per citarne una, ma potremmo citare che ne so, veramente sia la Radio Alice bolognese, come le radio private, per modo di dire, visto che erano liberate più che private, anzi erano collettive in quel senso lì, in maniera errata si considerano private, come antesignane poi delle radio private, in realtà appunto riportavano la collettività, riaprivano uno spazio collettivo e rompevano un monopolio, quello della radiotelevisione di Stato, dando appunto una nuova possibilità a nuove idee, nuove assolutamente pratiche linguistiche che rompevano appunto la quotidianità anche dell'uomo più medio, che si ritrovava appunto o sintonizzato su radio assurde per lui chiaramente, o appunto su momenti televisivi assolutamente defagranti della sua vita, insomma, e quindi si doveva confrontare con nuovi immaginari. Appunto, prima prendevamo fuori l'altra domenica, dove c'erano momenti assolutamente assurdi, quando c'era l'intervento quasi appunto clandestino e piratato dell'allora grande, geniale Maurizio Nichetti, prima che facesse delle cose improponibili, ma come tanti altri che sono passati attraverso l'altra domenica, perché comunque quella sorta di sperimentazione televisiva passava attraverso un periodo storico, non è che i personaggi fossero tout court immutabili e attenti anche nel futuro prossimo, cioè gli anni 80, a questo tipo di ricerca. Erano anche loro condizionati da questo clima che si viveva in meravigliosamente, meraviglioso, infatti meravigliosamente. Appunto Maurizio Nichetti faceva l'intervento da una radiotelevisione clandestina che si denominava Gruppi a Sinistra dell'altra domenica, e si infilava in maniera polemica durante la trasmissione, cose assurde, ma come tantissime altre cose assurde che passavano in una televisione che comunque negli anni 70 era attraversata, e basta se uno ha la possibilità di andare a ripescare, rivedere quello che era successo tra il 73 e il 79. La Rai era stata pesantemente trasformata, soprattutto attraverso il canale che era Rai 2, che era quello che sperimentava in tutte le varie forme dei linguaggi nuovi televisivi e non solo. E da qui, partendo da questa citazione, anche se giustamente il buon Max dice però purtroppo sono sempre robe un po' vecchie, è vero, secondo me, rivedendo quello, trovi delle cose ancora assolutamente attuali, paradossalmente non sono datate. Sarà anche questo divertente andare a ricercare, anche se i materiali continuano a essere abbastanza difficili da reperire, come gran parte di quelle sperimentazioni che hanno attraversato la televisione degli anni 70 in Italia. È veramente durissima rivedere delle riedizioni, dei lavori di ricostruzione, tutte le cose che comunque facevano un po' di luce su questo periodo storico che continua a essere riproposto solo e solamente con questa cappa anni di piombo. In realtà erano ricchissimi, ma tutta questa parte è scientemente nascosta e mantenuta in una palude, con il rischio, secondo me, se qualcuno non si impegna, che questi nastri o queste registrazioni addirittura possano anche scomparire se andiamo avanti così. Dunque il problema è andare a ricercarle, trovare il modo di fare un lavoro di ricerca, perché sono ancora materiali che potrebbero essere assolutamente vivi e attuali ancora oggi, anche come elemento di riferimento per eventuali nuove sperimentazioni. Ecco, è un discorso anche questo importante. E poi quello che un po' facciamo noi 451, sì, non ci chiamiamo così casualmente, ricordando appunto sia il meraviglioso libro che l'altrettanto meraviglioso film di Truffaut, proprio appunto quello di come dire, riattivare una memoria dirompente, che è una memoria poi legata al futuro, appunto un passato che ha in potenzialmente schegge di futuro incredibile, e probabilmente sia ideologizzando la faccenda, cosa che facciamo assolutamente in maniera svelata noi, e sia d'altronde poi dall'altra parte, ma in maniera più massiccia e con ben altri strumenti di potere, fanno insomma d'altra parte buona parte dei media, che appunto reputano vecchie, quindi non più attualizzabili certe cose, ovviamente creando una sorta di buco nero, di grande velamento veramente di quelle che sono state appunto le culture che immaginavano un futuro, forse nell'immaginare un possibile futuro ci immaginiamo appunto di recuperare sicuramente certe pratiche e certi linguaggi che, ad esempio, in questo momento potremmo reinventarli come sigla d'apertura di una radio o televisione, sì, e appunto pirata dentro appunto la Bologna del 17 ottobre 2010, che inizia le trasmissioni alle 057:34 con Super Silent, con un parajazz assolutamente futuribile di 10 anni fa, ma che poco importa di che età sia, visto che va insomma a colpire poi quello che è una sorta di spazializzazione fuori tempo massimo, magari appunto per reiniziare, anche se l'abbiamo già fatto, un rinizio dentro 451. Sono d'accordo. Palinsesto e appunto di immagini, in questo caso musicali, ma non solo. Concentratevi, che verranno anche immagini con Super Silent, vere e proprie. We'll be right back. Thank you. Very early in the morning, the streets clean and deserted, I was going to the station. As I compared my watch with the clock on the tower, I saw that it was much later than I had thought. I had to make great haste. In my alarm at this discovery, I became unsure of the way. I was still something of a stranger in this town. Luckily, there was a policeman at hand. I ran up to him and breathlessly asked him the way. He smiled and said, "Do you expect to discover the way from me?" "Yes," I said, "since I cannot find it myself." "Give it up, give it up," said he. And he turned away with a great flourish, like a man who wants to be alone with his lovely. Thank you. una sorta di colonna sonora per paesaggi orrorifici, magari prima di qualche trasmissione di approfondimento su momenti crudi e decisamente realistici della società odierna, dentro appunto uno spazio giornalistico patafisico come quello, insomma, che abbiamo aperto da qualche minuto, insomma, questa parte, sia con Super Silent, che appunto davano l'avvio alla nostra radio televisione inventata, sia con la 1919, che ci riportavano dentro straniamenti comunque presenti anche dentro quei super plastificati in tutti i sensi secondi anni 80. In realtà poi la 19 e la 19 insinuavano ancora in quell'epoca in cui era difficile insinuarsi dentro appunto una plastica che si voleva appunto assolutamente lucente. C'era ancora qualcuno che ci riusciva, anche i nostrani 19 19, con un funky jazz assolutamente futuribile, futuristico, e poi un passage da Los Angeles, una sorta di via crucis tra Joy Division e momenti fantascientifici orrorifici, e Polaig, che è uscito da Joseph K, quindi di memoria kafkiana, personaggio appunto di Kafka. Joseph K, appunto, sta per la K, sta per Kafka, che ci riportava dentro la sua cinematica assolutamente orrorifica, dentro però quel suono cinematico che ci ricorda, ci rammenta anche di incubi realistici o vissuti probabilmente in un futuro prossimo avventura, in questo senso le porte anche aperte all'immaginazione di Polaig sono state decisamente spalancate verso territori attraversati e non attraversati da molte musiche che si sono fatte a cinema inventato, a visioni assolutamente fantastiche, come d'altronde qua questa sera stiamo provando a fare attraverso una radiotelevisione assolutamente sgangherata, assolutamente impostata sul momento, assolutamente decostruita nella sua non forma e forse insomma anche nel divertimento del fare in così in non fare. Il fare e non fare, forse è più facile non fare, forse è meglio non fare. Ovvero come lottare contro il lavoro. Ecco, non fare, questo mi è capito subito, infatti il non fare era riferito a questo. Però siamo talmente lontani da questo tipo di rivendicazione. Appunto, siamo nel futuro, proprio nel futuro. Ce la stiamo reinventando. Giusto. E passando appunto nel reinventare tutto un aspetto connesso a questa radiotelevisione che abbiamo cercato stasera di proporre con dei frammenti audio e purtroppo non video, ma ci piacerebbe anche farlo via video, perché insomma siamo dei bellissimi ragazzi, in primis tu, e al di là di questo il prossimo progetto che andiamo a presentare è un progetto multiforme, perché ha in realtà ben tre denominazioni, nato oltretutto da pochissimo tempo, dunque è uno dei progetti proprio nuovissimi, nati nel 2009. Si tratta di due personaggi, El Social e Dave Woke, che da Filadelfia hanno costruito questo triplo progetto compenetrante, che in realtà è Word Tapes, Memory Tapes e Memory Cassette. Noi andremo stasera ad ascoltare un lavoro di questo trittico, potremmo dire, musicale, progettuale, uno splendido lavoro oltretutto con un vero e proprio drone cosmico, ma assolutamente anomalo rispetto anche alla tipicità della musica cosmica, ha delle variazioni anche non soltanto dal punto di vista sonoro ma anche dal punto di vista compositivo, che comunque sorprende nell'ascolto, perché sì, è un viaggio cosmico ma con dei momenti molto terreni che spezzano questo flusso, ma che in realtà lo rendono anche più ricco, più poliedrico e più suggestivo per certi versi, ma perfettamente dentro anche un'idea che ci accomuna in questo senso di colonna sonora, quasi di nemmeno di un programma, quasi una colonna sonora di una vera e propria radiotelevisione vivente. E ce ne andiamo a sentire dunque una novità, una piacevole novità di questi ultimi due anni da quella degli Stati Uniti, Memory Cassette. Thank you. molto evocativo, come diceva giustamente, dicevamo insieme mentre ascoltavamo questo splendido lavoro di Memory Cassette o Memory Award Cassette, tapes, insomma mischiamo un po' le Memory carte. Tapes, insomma, memory mischia anche lui le carte, gioca un po' su questo trittico di nomi, e infatti anche andando a cercare la discografia si incrociano e si sovrappongono i vari progetti, che poi in maniera piuttosto chiara sono riferiti soprattutto ad Ike Oak con la collaborazione di il social, ma in realtà il discorso musicale è molto interessante perché recupera delle cose sicuramente chiare dal passato, come chiunque voglia partire con dei progetti musicali, c'è sempre ovviamente la radice, il punto di partenza, i riferimenti musicali, ma c'è molta personalità nella strutturazione di queste nuove atmosfere che si possono sì anche definire cosmiche, ma hanno anche ad esempio questi inserimenti quasi di musica western assolutamente sì, spaziale appunto, anche oppure strane interferenze 80 sì, anche anni 80 reinventate assolutamente, assolutamente. Ci sono dei suoni nuovi che in questo triplo progetto emergono di questo giovane autore musicista che sicuramente speriamo possa proseguire su questa linea molto molto interessante. D'altronde ritorniamo sempre sui punti cardine di questi ultimi forse due anni musicali, sono purtroppo solo o quasi esclusivamente gli Stati Uniti che producono delle cose interessanti dal punto di vista innovativo, mentre la nostra cara Europa, che negli anni 90 aveva Arranca. Prodotto delle cose molto interessanti, da parecchio tempo sta un po' guardandosi allo specchio, dunque è uno specchio anche brutto un po'. Si trova un po' brutterella, una vecchia Europa, una vecchia signora. Sì, una signora un po' sfatta, buttata lì, che si guarda ricordando il passato, mi sembra un po' così, o quasi che voglia fermare il tempo, cioè abbiamo fatto queste cose, rimaniamo qua, no? Il più possibile, che ci danno sicurezza. Potrebbe essere una metafora anche delle nostre vite, che stanno lì un po' incassate, impaludate, cercando quelle sicurezze minime che sono invece la morte e che crediamo siano invece le nostre protezioni. Beh, dopo questa assertazione filosofica e sociologica, importante, importantissima, molto sincera, sicuramente sincera, non so quanto possa essere incidente con la realtà, ma vediamo. Un incidente sicuramente. Un incidente sicuro, ma brutto, brutto però. E dai, Memory Cassette o War Tapes o non me lo ricordo, Memory Tapes. Memory Tapes. Ci spostiamo appunto in questa dimensione accennata a questo finale western, cosmic western, sì, a una formazione che in realtà hanno proprio sonorizzato il west e western, terra da dove vengono, ovvero Steve Roach, Kevin Bryan, Richard Barmer, tre geni delle elettroniche applicate anche, quindi già di fatto i tre si preoccupavano di immaginare, di sonorizzare anche un futuro. Soprattutto Steve Roach è diventato famoso con musiche poi legate molto all'ambient ritual, così è stata definita, una sorta di, oppure di panetnico, con Suspended Memories ad esempio, anche titolo che rimanda, evoca insomma momenti appunto di retroattività molto comunque sempre molto pregnante, anche appunto con queste schegge o impazzite o comunque decisamente alimentate da idee di futuro. Per quanto poi Steve Roach anche Kevin Bryan e Richard Barman siano stati dentro inclusi dentro il fenomeno New Age, citando Gino Dal Soler, che ogni tanto viene a farci visita anche qua a 451, oltre che salutarlo chiaramente, e ci raccontava durante un'intervista, chiedesse a Steve Roach come vedesse insomma il suo essere dentro la New Age, perlomeno per molti critici gli affibbiassero questa etichetta, e Roach insomma abbastanza scocciato ha detto: non mi interessa faccende di quel tipo, sono ben proiettato su altri tipi di New Age, Age, nel senso proprio vero e proprio della tecnologia, della, dell'inventare musica, nuove ere in questo senso, nel senso di invenzioni, quindi del nuovo. E poi varie polemiche che sono succedute anche tra critici musicali legati a questa cosa. Qualcuno si è arrabbiato e ha detto no, Steve Roach comunque rimane New Age, indipendentemente da quello che lui dichiara durante le interviste. E anche queste sono cose abbastanza curiose dentro appunto questa radio televisione, che magari appunto si può immaginare questo momento di polemica vera e propria. Così rientriamo anche dentro una sorta di così di momento di talk show. Ci facciamo il talk show mandiamo anche una sigleta, ce la inventiamo noi e mandiamo una cosa assurda. Ecco, la sigleta potrebbe essere appunto questo pezzo di Steve Roach che come sigla un po' lunga però. Come sigla un po' lunga, un po' è tutto sigla. Tu lo sai che poi le sigle venivano anche, come dire, tagliate, sì, no? E allora noi faremo questa cosa qua, poi Steve Roach insieme a Kevin Bryan per un altro momento di reinvenzione di spazio occidentale. Bravo. Vediamo, sentiamo. Sì. Sì. Reinventiamoci. Sono d'accordo. Caro. evocazioni dallo spazio profondo, si potrebbe dire, questo pezzo decisamente lirico di Steve Roche insieme a Kevin Bryan. E appunto per concludere mettiamo i due, come annunciavamo prima, sempre da Western Space, e a rimandarvi appunto a quel paese. A quel paese, infatti stavo dicendo, rimandarti a chi? Rimandiamo gli ascoltatori al blog, al no blog, coloro che fossero interessati a riascoltare la trasmissione di stasera, avere le notizie sui progetti che abbiamo mandato in onda, come quella della scorsa puntata, sempre sul nostro no blog, che è 451frammentisonori.noblogs.org. E chiaramente una buonanotte umida e salata in questa Bologna che già riparte nel suo bellissimo clima già da ottobre, e noi ritorneremo chiaramente domenica prossima, cercando quest'anno di mantenere fede agli impegni dati. Oh là là, abbiamo firmato contratti con lo spazio. Contratti importantissimi, contratti con l'etere, con la popolazione. Con la popolazione spaziale. Con la popolazione spaziale, sì. Probabilmente su... Quale ti piace come pianeta? È piccolino, a me piace Mercurio. Mercurio, ma non ci può stare. Mercurio cromo. Mercurio, è gassoso Mercurio. Ah, perché dove puoi stare, scusa? Marte. Però è freddo. Sono un po' freddino. Già c'è umidità qua. Però sì, almeno lì c'è, insomma, non è gassoso. Ci sono i marziani, mi dici, no? No, i marziani non ci sono. No, non ci sono. E se ce lo dice Rizzo Scarpa, non ci crediamo. Marziani. Ma ogni tanto fanno le foto. Ma non ci sono marziani, non ce ne esiste nessuno. Nel sistema solare non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Siamo solo fuori noi. Dalla nostra galassia può essere, insomma. Siamo solo noi. Secondo me in un'altra galassia che c'è tutta la teoria degli universi paralleli. No? Come no? Ci sarà un altro Max. Speriamo proprio di no. No, eh? Perché dicono appunto che c'è anche proprio, probabilmente nello stesso nostro spazio, sono stato spostati leggermente a livello temporale, insomma. Può darsi che 10 minuti prima arriva un Max tutto splendido, senza nessun problema, capito, la trasmissione. Ma non sono io, allora. Sei sempre tu in altri possibili futuri. Anch'io potrei essere, metti che ho un sacco di capelli nell'altra mia realtà. E adesso hai un sacco di barba, poi. Sì, l'altro senza barba. Con tanti capelli. Con tanti capelli. Ti piace, sì. Va bene, vi lasciamo ai vostri universi paralleli. Nel frattempo tuffatevi appunto in una splendido Steve Roche con Kevin Bryan e Richard, che è un nome impronunciabile. Sì, infatti, noi lo pronunciamo un po' spaziale, un po' neologismo. Neologismo, un po' sai, patata in bocca. Sì, quando gli astronauti parlano con le patate in bocca dallo spazio, non dalla Terra. Dalla Terra è qua vicino. Qua vicino un sacco di soggetti con le patate in bocca. Prodotto dalla provincia. Va bene. Buonanotte.